Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quella sera, dopo che abbiamo appoggiato il dito sul bicchiere, passano più di 10 minuti di assoluto silenzio, senza che succeda nulla. Stiamo quasi per rinunciare, quando un sussulto del bicchiere ci sveglia. Sono Giorgio, ho 62 anni, sono di Biella, in Piemonte. Mi occupo di antiquariato, sono sposato, ho una nipotina bellissima e sono qui per la storia di oggi. Se non l'avete già fatto, se siete capitati per caso da queste parti, qui alle 16 e 8 minuti in punto, in diretta su Radio 24, e quindi ascoltate per la prima volta questo programma, noi abbiamo a che fare con le storie tutti i giorni, con le storie delle persone che hanno voglia di condividere pezzi della loro vita. Provate a pensarci anche adesso al volo un episodio che racconti qualche cosa di voi. Lo prendete, lo scrivete, una, massimo due pagine, e lo inviate a voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia ne mandate uno, se avete voglia ne mandate due o più, un po' come ha fatto Giorgio, perché Giorgio, per gli ascoltatori invece assidui di questo programma, non è una voce nuova e non è neanche una penna nuova. Oggi racconto una storia, diciamo, più di vita quotidiana, ma la storia che ci ha mandato l'anno scorso, che ha raccontato e che abbiamo raccontato anche al live di fine giugno del 2014, ovviamente qui dalla sede di Radio 24, era una storia incredibile, una di quelle storie che con Tiziano, diciamo, quasi fanno una stagione di programma. La storia l'avevamo intitolata Siamo vivi e raccontava di lui che parla col padre che è mancato da poco e che gli chiede chissà cosa ne sarà di te, e chissà, visto che ne parlavamo spesso, adesso sai cosa c'è dall'altra parte, sai cosa c'è dopo la morte, se non c'è nulla o se invece c'è qualcosa. E da lì a poco riceve un pacco contenente un giornale che racconta la storia che aveva vissuto suo papà molti molti anni prima, 58 anni prima, quando era affondato un sommergibile e suo padre era uno dei 19 superstiti che avevano infilato in una bottiglia un bigliettino con scritti i loro nomi e la scritta Siamo vivi. Quella bottiglia veniva ritrovata 58 anni dopo su una spiaggia della Sicilia da una ragazza che stava pulendo una spiaggia, e per lui era idealmente una risposta a quella domanda, con un ritardo di quasi 60 anni. Era una storia incredibile quella, che anche solo dal titolo fa venire la pelle d'oca. Siamo vivi. Quella di oggi fa venire la pelle d'oca probabilmente per altri motivi, perché tutti quanti siamo passati attraverso il periodo delle sedute spiritiche. Sto generalizzando, ovviamente, quando dico tutti quanti c'è qualcuno che non l'ha mai fatto, però insomma, chi non si è trovato lì con le mani messe insieme, che poi non c'è mai nessuno che sa esattamente come funzioni, tutti improvvisano, metti, no, non rompere il cerchio, sai che c'è la teoria che se esci dalla catena succede qualcosa di terribile. Tutti ci siamo passati attraverso, e tra l'altro la storia di oggi parla di una seduta spiritica, la storia di Giorgio, ma parla e ha un titolo bellissimo che ha incuriosito tutti noi, perché diciamo boh. Il titolo è Come sono diventato femminista. 349-238-6666. Non so se siete femministi, non so se lo siete diventati, uomini e donne ovviamente, vale per entrambi i casi, ma se avete voglia di raccontarci come lo siete diventati, oggi è la puntata per voi. 348... Scusami un secondo, intanto lo dimentico. 349... E che Paolino, senti, posso confondere l'8 e il 9 ogni tanto? 349-238-6666 è il numero per scrivere gli sms, mentre il profilo Facebook, vedi, già arrivato, sono arrivati già messaggi. Mariangela, sempre per sempre femminista, e sto inculcando il femminismo, tanto così ci sono andato, il femminismo anche alle mie figlie, e l'orgoglio mi invade quando dicono al padre, eh no papà, le donne sono più brave. Beh, non è proprio femminismo, questo è proprio femminismo di bassissima lega. Le donne sono più brave, le donne hanno una marcia in più. Certo, vale, però non è esattamente quello, no? Poi esatto, come suggerisce Tiziano. Parità. PS, mi scrive Mariangela, mia figlia ha dato nomi femminili a tutti i 1000 peluche che possiede. Anche questo, Mariangela, non è esattamente quello che pensavamo. Se siete diventati femministi, ce lo raccontate nella puntata di oggi. 349-238-6666, che parla di femminismo e di salute spiritiche. Una luce bassa. Sul tavolo davanti a noi, bigliettini disposti in cerchio e su ognuno una lettera dell'alfabeto. Al centro, un bicchiere capovolto. È una notte calda d'estate, siamo nel 70, ed è anche abbastanza tardi. Siamo in quattro, io, la mia ragazza e il mio amico con la sua. Abbiamo voglia di divertirci e ci apprestiamo a concludere la serata facendo quello che noi consideravamo solo un gioco, una seduta spiritica. Praticamente tutti mettiamo la punta di un dito sul bordo del bicchiere e aspettiamo che il bicchiere si muova e diventi il mezzo per comunicare tra noi e l'aldilà. Ad essere sinceri, tutte le volte che ci avevo provato prima non era mai successo un granché. Le poche volte che il bicchiere si muoveva lo faceva talmente piano e in modo talmente incerto che ognuno di noi era convinto che fossero gli altri a spingerlo, formulando delle frasi cretine, sconclusionate e senza senso. Ho partecipato, penso, a una ventina di queste sedute, sempre con amici e sempre prese per gioco, mai troppo seriamente, meno che quel giorno famoso. Quella sera, dopo che abbiamo appoggiato il dito sul bicchiere, passano più di 10 minuti di assoluto silenzio, senza che succeda nulla. Stiamo quasi per rinunciare quando un sussulto del bicchiere ci sveglia. Come sempre, le prime domande sono: chi sei, da dove vieni, quando sei nato, quando sei morto? Il bicchiere comincia a rispondere ed è insolitamente veloce, tanto che dobbiamo alzarci in piedi per poterlo seguire. Chi ci risponde è Lucia, una bimba spagnola di 12 anni morta di peste all'inizio del 700. Cerchiamo di conoscerla meglio, le chiediamo cosa le piace. Lei ci dice che amava la musica e che amava anche molto leggere. In quei giorni io dovevo sostenere gli esami di maturità, avrei dovuto presentare una tesina su qualche scrittore contemporaneo. Non sapendo chi scegliere, lo chiedo a lei. Conosci anche qualche scrittore contemporaneo? Chiedo. Certo, risponde. Degli italiani mi piace Carlo Cassola. Tutti ci guardiamo con uno sguardo interrogativo. Mai sentito nominare. Continuiamo a chiacchierare con Lucia, affascinati dal personaggio e dalla sua inedita decisione e correttezza nelle risposte. Quando decidiamo di terminare la seduta, la salutiamo come fosse un'amica. Il mattino seguente corro in libreria e cerco notizie su Carlo Cassola. Decido di comprare Un cuore arido, un suo romanzo che diventerà l'oggetto della mia tesina per la maturità. È la storia di Anna, una donna che negli anni 60 si ribella con piccoli atteggiamenti al maschilismo imperante nella sua famiglia. Arrivano gli esami, faccio un compito di matematica da buttarsi sotto un treno. Il giorno dopo però ho italiano. Aspetto fuori dall'aula con una copia della mia tesina femminista su Cassola sotto il braccio. Sono così agitato che, quando chiamano il mio nome, mi guardo intorno per vedere se si alza qualcun altro. Entro nell'aula. Una ragazza carinissima, dai capelli rossi, con pochi anni più di me, mi fa accomodare. Io non avevo capito niente, ma quella era la commissaria d'esame. Ho letto la tua tesina su Cassola e non ho più nulla da chiederti, perché mi è piaciuta molto, mi dice. Ero molto incosciente, ho affrontato la maturità con una grande incoscienza, ma anche per istinto, vado anche nelle cose un po' per istinto, quindi ero più ottimista che pessimista. Da quel momento chiacchieriamo come amici per almeno mezz'ora e scopro di avere davanti a me la più sfegatata femminista italiana degli anni 60-70. Saprò in seguito da vie traverse che il commissario di matematica voleva darmi un misero 38 come voto e che lei gli disse che se non avessi preso almeno 56 avrebbero dovuto camminare sul suo cadavere. Da quel giorno, grazie ad Anna e alla ragazza dai capelli rossi, divenni un femminista convinto. Ma soprattutto grazie a Lucia, che da così lontano è entrata per un attimo nei miei favolosi anni 60. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato. È una foto bellissima quella che ci ha mandato Giorgio, che trovate come al solito sulla nostra pagina, voi siete qui, sul sito di Radio 24, che è radio24.it. Sono lui bellissimo e un'altra ragazza bellissima che lo bacia su una guancia. Tutte e due hanno gli occhi socchiusi e devo dire che mi sembrava quasi una foto di Cassola o addirittura di un'epoca ancora precedente. Pronto Giorgio? Eccomi. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, buongiorno a te, grazie. Figurati. Per tutto. per tutto. Grazie a te per la storia, Giorgio, appunto lo dicevo prima, ci siamo anche incontrati noi, hai incontrato tu tutte le persone che erano al live di giugno in occasione. È stato bellissimo, è stata una serata di quella serata, esatto, di quella storia. Una volta in vita mia ho anche rilasciato degli autografi. Questo non lo sapevo e mi fa piacere, tra l'altro sì. Mi è capitato di raccontare di nuovo quella storia, quando mi chiedono degli esempi mi viene subito in mente Siamo Vivi, perlomeno noi l'avevamo chiamata così, Siamo Vivi, quella storia del tuo babbo. Vero, che era veramente, veramente incredibile. Ma veniamo invece, scusami, alla seduta spiritica. Sì. Innanzitutto, Giorgio, allora, innanzitutto che voto hai preso alla fine della maturità? 56. Ah, te l'ha fatto prendere 56 alla fine? Assolutamente, non usciva di là se non prendevo quel voto. Abbiamo ho trovato un'amica straordinaria. Abbiamo avuto più notizie di lei, infatti l'hai conosciuta? No. Però è più bello così, perché per me è rimasta uguale quel momento là. E tu da allora sei un femminista convinto? Assolutamente. Sì, da quel giorno ho visto le donne con una lente diversa. un po' funzionalistica come lente, però lo posso capire. Giorgio, ma invece parliamo anche di Lucia. Allora, tu racconti questa storia, sai che ovviamente il mondo si divide in chi ci crede e chi no, giusto? Negli super scettici. Cioè, tu ci hai raccontato questa cosa come se fosse tutto, diciamo, normale e avvenuto. È proprio avvenuto così. Quello che ho detto è vero, poi cosa c'è di vero? O sono pazzo che ho delle allucinazioni oppure qualcosa è successo. Quanto ha argomentato questa ragazzina, ricordiamolo, attraverso un bicchiere mosso da quattro dita, giusto? Ma molto, adesso lì nel racconto ho sintetizzato, ma è stata una serata, ma penso un'ora di conversazione. Quindi mai successo, mai. Tu non hai fatto poi, all'epoca immagino di no, ma oggi non hai più fatto una ricerca, nel senso che se metti su Google magari, no, era una, non era un personaggio noto che si... No, e poi Lucia e basta, sai. Lucia. Ah, giusto. Spagnola, Lucia, 200 anni fa. Invece la tua fidanzata che era con te è poi diventata tua moglie o...? Sì, è diventata mia moglie, lo è tuttora. E quindi si ricorda anche lei quell'episodio? Da allora. Sì, e lei era lì quella sera, quindi era uno dei protagonisti. Ed è lei nella foto che ci hai mandato? È lei. Ma è una foto fantastica, dove siete in questa fotografia? In un prato, adesso qui vicino alla mia città, in un prato. Vicino, tu sei di Biella, giusto? Ricordiamolo. Sì. In una passeggiata fatta in collina qui vicino da noi. Giorgio, cosa fai adesso? Sei in pensione tu, giusto? Sono in pensione, ma mi occupo ancora un po' di antiquariato per passione, perché la crisi comunque c'è. Ma quindi hai un negozio o partecipi a... No, faccio delle fiere, mi muovo. Ok, quindi vai a recuperare il materiale e poi lo vendi? Recuperare e venderlo. Mi dici l'ultima cosa che hai venduto, qual è stata? Adesso mi prendo la spugnista. Un quadro fa parte dell'antiquariato. Un quadro di Franco Gentilini. Ci puoi dire anche il prezzo? 2500 euro. Che è il suo? No, è molto meno di quello che dovrebbe essere. Ok. Ma oggi funziona così. Va così. Giorgio, io ti ringrazio ancora tanto e spero, insomma, di rivederti quantomeno, male che vada, al live di giugno del prossimo anno. Matteo, ringrazio tutti da capo, da Margherita in poi. Va bene. È un momento speciale sempre. Giorgio, grazie ancora. Buona giornata. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Perché lo dicevo prima, da adolescenti arriva un po' per tutti, magari non proprio per tutti, però per molti, il momento in cui si prende a modello qualcuno di qualche anno più grande. Fa un po' parte dei passaggi obbligati. Un altro passaggio obbligato è quello di guardarsi allo specchio una mattina e dirsi: adesso mi faccio crescere i capelli. Poi ce ne sono altri. Uno è, che so, quello di truccare il motorino e far finta di essere esperti di marmitte e carburatori. Sono quei passaggi non determinanti, però comunque obbligati, che arrivano come se non ci fosse un domani e poi, come sono arrivati, spariscono senza lasciare traccia. E quasi sempre sono sostituiti da qualcos'altro. E il partecipare almeno a una seduta spiritica fa un po' parte di questi passaggi obbligati. Per quanto mi riguarda, era successo che una mia compagna di classe del liceo ne aveva fatta una con sua sorella più grande e per i giorni successivi ci aveva svelato dei particolari di quell'esperienza incredibili. Ci raccontava di ragazzi e ragazze tutti in contatto tra di loro in una stanza illuminata soltanto da una candela, di notte, a fare una cosa molto pericolosa. Sarebbe bastato molto di meno per far galoppare la nostra fantasia di adolescenti. In classe in quei giorni non si parlava d'altro. Maschi e femmine eravamo tutti entrati nel passaggio obbligato della seduta spiritica. Ognuno dava sfogo alla propria immaginazione. C'era chi sosteneva di aver visto il diavolo mettendo uno specchio di fronte all'altro alla mezzanotte di venerdì 13. C'era chi invece non entrava più nella biblioteca della scuola perché c'erano dei libri che erano stati donati da una famiglia che aveva subito degli esorcismi. Il massimo però l'ho raggiunto un mio compagno che chiamavamo il Tonno. Una mattina era sicuro di essersi svegliato mentre fluttuava in aria e per essere più credibile diceva «Ma di poco, di poco, non di tanto!» Io facevo parte della fronda scettica, ma ci credevano così tanto tutti quanti che non avevo il coraggio di dirlo. Quindi quando si decise di fare la seduta spiritica, mi ci trovai in mezzo. La prima difficoltà che abbiamo incontrato è stata quella di decidere dove e quando farla. Nessuno di noi aveva ancora la patente e darci appuntamento di sera non era facile. E poi nessuno voleva farla a casa propria, per paura che gli spiriti si infiltrassero nei muri e non volessero più uscire. Per tutti questi motivi, alla fine non abbiamo trovato di meglio che fare la nostra seduta spiritica alle 10 di mattina a scuola durante l'intervallo. Abbiamo disposto le lettere scritte sui fogli del quaderno su un banco, abbiamo usato un bicchierino di plastica della macchinetta del caffè e in mezzo a gente che entrava e usciva, gente che litigava, gente che faceva casino, noi abbiamo unito le mani sperando che uno spirito arrivasse in fretta, perché da un momento all'altro sarebbe suonata la campanella. E lo spirito, infatti, arrivò puntuale e rispose a tutte le domande che gli facemmo. E ha risposto così bene che sembrava quasi che fossimo noi a muovere il bicchierino. Poi, visto che la campanella ha interrotto la nostra chiacchierata, ci siamo dati appuntamento con lui per il giorno dopo. Siamo andati avanti per qualche giorno a fare le sedute spiritiche nell'intervallo. Noi maschi chiedevamo al nostro amico spirito chi avrebbe vinto il campionato, le femmine chiedevano informazioni sui ragazzi più grandi delle altre classi. Ma prima che il nostro appuntamento diventasse routine, è arrivata la domenica a spingerci verso altri interessi. Il lunedì, dopo l'intervallo, avevamo perso le lettere e non avevamo voglia di rifarle. Il martedì abbiamo rimandato al mercoledì e il mercoledì ce ne siamo dimenticati. La spinta verso l'esoterismo, così come era arrivata, si era già esaurita. Un altro passaggio obbligato era stato superato e nessuno di noi ci ha più pensato. Alla fine però, dalla storia di Giorgio, ho capito un po' di cose. Ho capito che primo, tutti abbiamo almeno una storia da raccontare riguardo all'esame di maturità. Secondo, sperare in un 38 e portarsi a casa un 56 si può fare solo grazie a degli aiuti soprannaturali. Terzo, oltre ai diavoli, agli spiriti maligni e ai demoni, ci sono anche spiriti amanti della letteratura. Quarto, non ci crede nessuno, però siamo tutti convinti di aver vissuto un episodio insieme degli spiriti. E quinto, un buon romanzo può cambiare il destino di una persona. Margherita Ina, ho 31 anni, vivo tra Romentino, Milano e Baggio. Per 4 anni sono stata qui e mi è piaciuto tantissimo e non me lo dimenticherò mai. Oggi è il 30 di settembre del 2014 e non è un giorno come un altro, soprattutto per la redazione di Voi Siete Qui, perché avete sentito la voce di Margherita Ina, che forse è la prima volta che si sente ufficialmente, Marghe, credo sia la seconda volta. Margherita, in questi 3 anni e mezzo quasi, questa è la quarta stagione, è stata la persona che ha sentito, telefonato, cercato, mandato email a un numero di persone incredibile. Abbiamo fatto un conto, sarà almeno 700 direi, tra vabbè, hai letto molte più email, ma ha contattato, telefonato, fatto raccontare storie e di fatto conosciuto 700 persone, un piccolo paese. È come se Margherita fosse il sindaco di un piccolo paese fatto di storie che abbiamo raccolte in questi 4 anni. E uso il participio passato perché per dei motivi che noi, insomma, non stiamo qui a sindacare, ma che hanno a che fare un po' con la direzione che questo paese prenderà per il futuro, che non è una direzione che ci fa impazzire. Questo è l'ultimo giorno che Margherita passa con noi in redazione, poi in realtà in futuro chissà cosa accadrà di tutti noi, ma oggi Margherita saluta Radio 24 e saluta Voi Siete Qui, ma siamo noi soprattutto a salutarla e a ringraziarla, sapendo che comunque è talmente brava e bella che farà, a proposito di femminismo, che finirà a fare qualcosa sicuramente di ancora più bello e ancora più interessante, poi in futuro invece chi lo sa, ci si rincontrerà sicuramente. Quindi ancora grazie Margherita Inna da parte a tutti di quelli che scrivevano sempre e scrivevano sempre tutti: buongiorno Margherita, buongiorno Matteo in redazione, sempre. Grazie ancora Margherita Inna che è stata con noi e che ha fatto sì che questo programma fosse così, perché se non ci fosse stata lei sarebbe stato sicuramente un altro. Quindi in particolar modo grazie a tutta la redazione, ma grazie ancora a Margherita Inna, che molti dicevano credevo fosse Margheritina, Margherita Inna, invece è Margherita Inna, che per l'ultima volta, ma come se fosse sempre con noi. Grazie soprattutto a Giorgio, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Edoardo, vivo a Vercelli e la storia di domani è la mia e parla di quando, dopo una settimana di scuola a vela, mi imbattei nella mia prima scuffia. Questa è la mia storia e io sono qui.